Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Carissimo Pinocchio, se cedi tu addio, che cosa ti succede? Parla! Ti pesano gli anni? Hai i conti in sospeso per traumi precedenti? Ti hanno operato e non sei più quello di prima. Buongiorno da Nicoletta. Oggi parliamo di ginocchio. Per qualsiasi dolorino, dubbio, domanda, se siete giovani, se non lo siete più, chiamateci, perché oggi in studio con me è tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, tra l'altro noi torniamo spesso a parlare di ginocchio, perché il ginocchio è, devo dire, una miniera, no? Per voi ortopedici, perché al di là dell'apparenza è un'articolazione abbastanza fragile, è facile farsi male. Ma il ginocchio è fatto male, nel senso che noi abbiamo le due parti dell'articolazione che sono assolutamente incongruenti, nel senso che la parte finale del femore e la parte superiore della tibia hanno due forme completamente diverse. Una è sferica, ha due emisfere, quella del femore, che si appoggia su una superficie piatta, quindi di per sé teoricamente non potrebbe stare insieme. L'anca, per esempio, ha una conformazione diversa, la testa del femore va nel bacino ed è completamente contenuta. Invece noi abbiamo bisogno, perché il ginocchio funzioni e sia stabile, di legamenti, di menischi e di cartilagine. Quindi è molto, perfettamente ragione, è fragile, è facile che questa articolazione sollecitata malamente possa avere dei problemi. Però c'è anche da dire che se nella malaugurata ipotesi fosse necessario un incontro ravvicinato col bisturi, professore, che tra l'altro non usate neanche più. Questo è vero, oggi moltissimi interventi vengono fatti in maniera, diciamo, mini invasiva, quindi in artroscopia, senza aprire l'articolazione, e anche interventi più importanti come le protesi oggi hanno delle caratteristiche di mini invasività, cioè noi abbiamo perso il concetto di una volta, quando io ho cominciato a lavorare si diceva grande chirurgo, grande taglio, oggi invece si dice esattamente l'inverso, cioè si rispetta molto l'anatomia. E si riduce al massimo l'aggressività chirurgica. Quindi adesso con queste tecniche sempre più sofisticate, taglietti piccoli, andate a riparare il ginocchio, ci fate tornare nuovi. Quasi subito sempre, in gamba. Quasi sempre. Anche se nella riabilitazione, la riabilitazione deve essere fatta e non bisogna subito. Guardi, pretendere di essere messo in piedi. Io dico sempre che ci sono, no? Tre elementi. Uno è il chirurgo, sì. L'altro è il paziente, che fanno 90%. Però il 10% è fondamentale, è la riabilitazione. Però senza uno di questi tre elementi il risultato non è un risultato importante. E uno degli elementi importanti è il paziente, che deve capire quello che è stato fatto e deve impegnarsi per quanto riguarda il recupero, perché essendo un'articolazione così difficile fa fatica a recuperare dopo un intervento, anche se è un intervento poco aggressivo. Gli anni pesano sulle nostre ginocchia, ma è un peso che accettiamo volentieri. A parte questo dettaglio, che certo non è trascurabile e noi non lo trascureremo, ma sul quale non abbiamo alcun potere di intervento, quali sono le ginocchia più a rischio? Dipendono. Ma le ginocchia più a rischio sono quelle nate male, nel senso che perché già sono fatte male, se nascono anche male. Esatto, madre natura alle volte crea delle alterazioni dell'asse, quelle che sono le ginocchia varie o le ginocchia varie, alghe, che entro certi limiti vanno bene per un bel po'. Molto spesso però la distribuzione del carico, che viene a questo punto in maniera anomala perché la gamba è storta, progressivamente può creare un'usura dell'articolazione, quindi un consumo della cartilagine e quindi un'artrosi. È chiaro che se a questo noi associamo una enorme attività sportiva, come qualcuno fa per esempio, o un peso eccessivo, ovviamente questo tende a peggiorare la situazione. Quindi la conformazione, il tipo di attività che viene svolta o di lavoro o sportiva sono gli elementi fondamentali, e quindi anche l'età, perché è chiaro, col passare degli anni possono crearci dei problemi. Allora, se il nostro ginocchio si lamenta, cerchiamo di capire esattamente che cosa vuole dirci. Ci facciamo aiutare dalla nostra scheda, andiamo. Dove senti dolore? Nella parte anteriore del ginocchio? Nella parte mediale, cioè interna, o in quella esterna lateralmente? Quando ti fa male? Al mattino o alla sera? Il dolore scompare nel corso della giornata o invece si accentua con il passare del tempo? Hai male se stai seduto a lungo, ad esempio alla scrivania o al cinema? È doloroso per te inginocchiarti e rialzarti? Ci sono movimenti che devi evitare per non fare i conti con una fitta dolorosa? Ritornerò in ginocchio a te. 800 24 00 24. E mi viene da ridere perché non in ginocchio potevi venire, no? Un po' in ginocchio. Mi sarebbe un po' difficile dopo quello che mi è capitato. Ecco, è arrivato un ginocchio, avete già sentito la sua voce, che a me sta particolarmente a cuore. È un ginocchio ossuto, nervosetto, che ne ha viste di tutti i colori. Sì, direi di sì. E ha qualcosa da dirci e di cui lamentarsi. Di cui lamentarsi? Beh, lamentarsi perché era per la mia incuria, perché io dopo tanti anni che cadevo dalle motociclette e praticamente non mi facevo quasi niente, quasi, cioè qualche legamentino, ma insomma niente di che, alla fine un giorno scopri nella vita la fondamentale funzione di questa roba che è il ginocchio, perché ti esplode una rotula, ti partono i legamenti, rimani per terra come una specie di insetto cappiano che non riesce, esatto, a fare niente. E scopri a quel punto una cosa che per me era solo letteraria, perché per me mi aveva sempre colpito questa cosa del ginocchio, perché siccome sono amo il greco eccetera eccetera, allora questi i ginocchi non so quanti ci abbiano mai pensato, la radice in greco del ginocchio, che si dice gonu gonatos in greco, è questa idea del gn gen gon, che è la stessa cosa da cui viene il goniometro eccetera eccetera, cioè tutto ciò che ha a che vedere con ciò che si flette viene da questa radice greca gengon, da cui il ginocchio, perché si flette. Questa è la... tanto è vero che alcune espressioni letterarie, quelle dei poemi omerici, cioè sulle ginocchia di Zeus, che si dice sempre perché è una chiave con cui si fanno versi seriali, perché si diceva sulle ginocchia di Zeus? Perché cosa vuol dire sulle ginocchia? Perché le ginocchia di Zeus erano l'esempio classico di ciò che può, articolandosi, può flettersi e può decidere come vanno le cose, a seconda di come vuole Zeus. Tanto è vero che c'è la storia di Artemide, tanto per dire, perché siccome mi piacevano i miti, traducevo, cioè, Artemide da giovane che stava sulle ginocchia di Zeus e tirando la barba al padre diceva posso fare questo e quello, e lui a seconda di come faceva col ginocchio lei capiva tutto quello che avrebbe potuto fare. Quindi l'articolazione del ginocchio è una specie di espressione nel padre degli dei di come lui volge il futuro. Alla fine te lo rompi e capisci che è vero, perché il tuo futuro a un certo punto si appiattisce e sparisce. Ho capito perché ti fai crescere la barba. Per quale ragione? Perché voglio io di Artemide sulle ginocchia non ce n'ho, purtroppo, per me, per così dire. Però alla fine scopri tante cose che non sapevi, quindi ne ho approfittato, ho scoperto che cos'era il legamento di Wrisberg, che, di cui ignoravo l'esistenza. Professor D'Anchise, che cos'è questo legamento con un nome così strano? Sì, è un legamento che non è fondamentale, però ha un suo ruolo nella stabilità dell'articolazione. Ma allora, Oscar, con tutti questi problemi al ginocchio, lo vediamo però assolutamente in forma. Che cosa stai facendo? Sto facendo tanta fisioterapia, perché dopo che appunto è saltata la rotola dei legamenti, quindi ho dovuto fare due interventini, perché è saltata in tanti pezzi, la mia rotola è proprio boom, esplosa, cioè la distale tra il femore e la tibia è diventata di 25 centimetri, cioè c'era solo la pelle che teneva unito, purtroppo, era una cosa brutta da vedersi. Cosa leggerina, insomma. Leggerina, sì, quindi abbiamo fatto questo bello intervettone mettendoci un doppio otto di metallo con due rotaie dentro che servono per farlo articolare, adesso c'è la calcificazione in atto e io devo fare molta fisioterapia perché all'inizio, ovvio, il movimento tu non riesci a farlo, adesso invece col tempo si fa molta fatica, più ne fai, meglio è. Perché devi è vero, professor D'Anchise? Sì, è vero, più ne fai meglio è, compatibilmente, questo è un messaggio che bisogna sempre lanciare, la terapia aggressiva è una terapia che qualche volta può essere negativa, diciamo che io dico sempre che è il ginocchio che comanda, che deve consentire il recupero in relazione a come vanno le cose, perché qualche volta il ginocchio può fare retromarcia se forzato troppo, quindi è giusto farla, ma con buon senso. Tant'è che al fisioterapista io avevo detto, nella mia ignoranza iniziale, sottoponiamo c'è un programma aggressivo, immaginavo quelli dei grandi sportivi, perché questo è il fisioterapista che si occupa dei balini della scala, ecco la stessa cosa, mi metto in 5 settimane e faccio tutto, e lui mi ha detto questa è ignoranza, perché tra il ginocchio ha bolle. I suoi tempi, certo. E quindi il ginocchio ha i suoi tempi, non è che se fai 20 ore e ti metti sotto è più rapido, no. Certo. Quindi hai dovuto toccare col ginocchio e con mano che non sei come bolle. Eh sì, infatti di fronte c'è una sua fotografia, non so, la mia fotografista, dice voglio diventare come lui, e lui ride dicendo magari nella prossima vita. Speriamo. Senti, consigli quindi ai motociclisti, alle persone come te che dunque, i motociclisti, il mio consiglio, io ho sempre evitato di andare con le tute che invece ci sono e sono fatte di materiali specificamente molto utili perché hanno un'elevata resistenza. Andate in moto molto protetti sulla schiena e le ginocchia, perché chi evita di farlo confidando in Dio è uno sciocco. È uno sciocco, perché in motocicletta è bello andare, io purtroppo non ci posso andare più, però si rischia inutilmente, mentre invece andandoci il più possibile tutelati si mettono a riparo le articolazioni, perché le gambe e le ginocchia sono molto esposte, ma anche la schiena, perché quella è ancora più delicata. Sì, questo è fondamentale, perché un impatto diretto sul ginocchio può in effetti far saltare la rotula. Se c'è una protezione, evidentemente questo rischio viene nettamente ridotto. Allora Oscar, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi e buon ginocchio a tutti. Buon ginocchio a tutta questa cosa di Giove, della radice. Ma, bellissimo. È per quello che mi sono affezionato all'articolazione. Allora, noi intanto abbiamo Davide che ci chiama dalla provincia di Como e poi Federico da Udine. Buongiorno a tutte e due, ma iniziamo con Davide. Buongiorno, io volevo fare una domanda al professore. Sì. Io per lavoro mi è capitato spesso di stare in ginocchio anche per lungo tempo e fare delle lavorazioni proprio in questa posizione. Mm. Col passare degli anni mi si è formato come un ispessimento, una specie di gomma, che attualmente quando mi metto in ginocchio in determinate posizioni appare proprio come una punta di coltello che penetra nel ginocchio. Mm. C'è proprio una fitta incredibile. Allora, mi fa perdere anche l'equilibrio, diciamo. Allora, ci possono essere due possibilità. Uno è che si è formata una callosità, nel senso che rimanendo a lungo in ginocchio, come spesso capita, la pelle si ispessisce e questo può dar fastidio. L'altra invece è la formazione di una borsite. Quando in tutte le parti del corpo, tipo il gomito, tipo il ginocchio, quando c'è un osso, una parte del nostro scheletro a contatto con la pelle, Madre Natura ha messo una specie di borsa che riduce questo attrito. Se c'è una sollecitazione importante, questa borsa può riempirsi di liquido e quindi dare fastidio. Quindi potrebbe essere o una callosità per la quale c'è poco da fare, deve cambiare mestiere, oppure questa borsite che... Ma se uno mette una ginocchiera, sto dicendo una sciocchezza, però. No, non è una sciocchezza, è una cosa molto giusta. Comunque c'è, allora, per la borsite non si può più fare niente, perché è per prevenire eventualmente la borsite, può andare bene, e per ridurre il problema della callosità. Federico, tocca a lei, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo sottoporre al professor D'Anchise il mio caso. Ecco, io soffro di dolore a un ginocchio, che appunto questo dolore mi tormenta saltuariamente, prevalentemente la sera, ecco, quando poi mi rilasso, mi riposo dalla giornata lavorativa, sono soggetto appunto a questo dolore. E dalle risonanze magnetiche che abbiamo effettuato su entrambi gli arti per poter comparare appunto le due realtà, chiamiamole così, non è emerso niente di anormale a seconda di tutti quelli che hanno potuto visionare queste lastre, questi risultati. Come sì, mai? Quanti anni hai innanzitutto? 32. E che lavoro fa? Come di un'attività in piedi, un'attività... Ma è un'attività che mi tiene molto in movimento. Ecco, se lei rimane a lungo, per esempio, col ginocchio piegato, le dà un po' fastidio? Diciamo che durante il giorno questo problema non è che questo dolore non si fa sentire molto, e poi la sera quando rientro a casa, Senta, mi consente di dire una cosa importante. Noi oggi riteniamo che la risonanza magnetica sia l'espressione definitiva di quello che ha il nostro ginocchio. Questo è vero, ma non sempre è vero. Prima di tutto perché non sempre la risonanza viene fatta al meglio, e secondo perché la risonanza non fa vedere tutto in maniera precisa. Quindi io posso ipotizzare nel suo caso che possa essere un problema di cartilagine. Spesso la cartilagine della rotula specialmente è molto molto fragile, e se sollecitata può andare in crisi, e la risonanza non sempre fa vedere queste immagini. Quindi io credo che debba sentire un ortopedico, e se è così il suo problema, molto probabilmente può essere risolto con una buona riabilitazione muscolare. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Salve. Da Roma. Buongiorno. 800 24 0024. Immagino che non sia in treno, no? Da Roma. Carlo. Allora, io volevo fare una domanda. Sono uno sportivo, 48 anni, pratico running da circa 6 anni. Faccio mediamente 50-60 km a settimana. Ultimamente curo molto la muscolatura esterna al ginocchio, ma volevo preservare anche le cartilagini. Certo. Ho letto da qualche parte che ci sono dei prodotti sia farmaceutici sia curando l'alimentazione che possono in qualche modo preservare o ricostruire le cartilagini. Quanto è vero e che prodotti alimentari anche naturali possono aiutarmi a preservare le cartilagini? Grazie della sì, risposta. Non c'è nessuna evidenza scientifica in questo momento di questi prodotti. Se ne parla, diciamo che se ne parla più come trattamento, come terapia che come prevenzione. Purtroppo devo dire la verità che lei ha scelto un'attività sportiva molto pesante per l'articolazione, nel senso che la corsa è come fare dei piccoli salti continuamente, quindi la pressione sull'articolazione diventa veramente, veramente importante, e quindi è possibile che nel tempo queste ginocchia le possano dar fastidio. Io credo che l'elemento fondamentale sia una buona muscolatura, quindi, come sta facendo, è la cosa migliore, avere una muscolatura ben allenata al di là di quella che può essere la corsa. E quindi magari alternare la corsa con altre attività sportive. Sì, con un rinforzo muscolare specifico, in modo da avere della muscolatura molto valida, perché attenzione, questo un altro argomento importante: il ginocchio non è solo l'articolazione, il ginocchio è anche la muscolatura. Se io riparo un ginocchio ma non ho una buona muscolatura, il ginocchio da solo non è in grado di sopportare le sollecitazioni, ha bisogno di una muscolatura della periferia che l'aiuti. Professor D'Anchise, lei ci ha detto la corsa insomma è uno stress per le nostre ginocchia, sì. Ma il nostro ginocchio in fatto di sport che gusti ha? Parlo di un ginocchio sano, giovane, anche un po' avanti negli anni. Allora, il concetto che vale sempre un po' nel nostro mestiere in generale, al di là del ginocchio, è fare tutto con moderazione. Cioè, io credo che si possa far tutto, qualsiasi attività fisica, evitando la sollecitazione importante. I grossi atleti, nella stragrande maggioranza dei casi, alla fine della loro carriera hanno delle ginocchia rovinate, siano calciatori siano altri atleti che facciano dello sport che richieda la sollecitazione dell'articolazione. Quindi io credo che si possa far tutto. È chiaro che la corsa, tutto quello che viene fatto con il peso del corpo è sicuramente un po' a rischio per l'articolazione. La bicicletta, per esempio, è uno sport che va molto bene, anche lì però bisogna distinguere. Io racconto sempre di un paziente che avevo operato, gli ho detto faccia pure un po' di bicicletta, è tornato dopo 20 giorni il ginocchio come un pallone, dico ma cosa ha fatto? E ho fatto bicicletta, poi indagando era andato a fare le tre cime di Lavaredo perché io gli avevo detto che poteva fare la bicicletta. Quindi il buon senso credo che possa consentire di far bene tutto senza avere ragionevoli limitazioni. Allora, anche oggi una domanda per voi che permetterà ad uno di voi di ricevere a casa i primi 5 libri della collana Misura il tuo sapere, che è in edicola dal 23 luglio ogni sabato e martedì con il Sole 24 Ore a soli 10 centesimi in più del quotidiano. Ogni uscita sarà dedicata ad un argomento diverso. Oggi in edicola sfide logiche e matematiche, da cui abbiamo preso questo test. Voi ascoltatelo e poi dovete chiamare l'800 24 0024 per dare la risposta. Quando sommate l'anno di nascita di un padre, quello di suo figlio, e a questi l'età del padre e del figlio, quale risultato ottenete? È abbastanza facile perché l'abbiamo provata anche io e Laura Vanossi, ce l'abbiamo fatta, per cui so che voi siete molto in gamba a proposito di ginocchio e quindi aspetto le vostre chiamate. Roberto, buongiorno da Verona. Buongiorno a tutti voi, buongiorno dottore. Niente, una domanda. Io sono stato operato al menisco nel mese di dicembre causa un infortunio durante una partita di calcio. Roberto, viene da ridere anche a lei, perché vi fate male. Vi fate male perché non vi riscaldate, perché no, ci sono gli amici, volete fare bella figura. Ale, No, no, scaldati, si sono scaldati, il problema è stato l'avversario. Vabbè, ecco, sempre okay. Colpa dell'altro, però Roberto, no, lo dico perché io vi invidio. Non era riscaldato l'avversario. Io vi invidio molto perché voi avete il calcetto e vi muovete e io, insomma, a me piacerebbe avere uno sport di, no, da fare con le amiche, però, insomma, devo tornare a giocare a pallavolo. Va bene, Roberto. Sì, allora, sì, e lei si è fatto il menisco? Il corno del menisco mediale nel mese di dicembre. E praticamente da quando ho fatto tutto il discorso rieducazione con l'ospedale, vi dicendo, io è da 2 mesi che praticamente non dico che mi fa quasi male come prima, ma quasi, sempre nello stesso identico punto, e in più, facendo un lavoro dove sto in macchina parecchio tempo, quando mi alzo dalla macchina, ovviamente per scendere, la parte dietro del ginocchio, la parte proprio posteriore, sento un forte dolore per una decina di secondi, poi il dolore passa e diciamo che torna a camminare normalmente, però scendendo stento proprio a scendere perché quasi mi cede il ginocchio. Ecco, bisognerebbe giocare ancora a calcetto, un'altra botta. 36. Beh, guardi, bisognerebbe vedere ovviamente la situazione, perché molte volte queste rotture meniscali non sono delle rotture proprio da trauma, ma sono delle rotture legate anche all'usura. Dopo i 35 anni il menisco tende un po' a consumarsi, un pochino, non tanto. Vabbè. E in questo caso il recupero dopo un intervento può essere molto più lento. Questa è un'informazione che io do sempre ai pazienti, perché noi siamo abituati a pensare all'artroscopia come all'intervento che dopo 2 giorni ci fa tornare a giocare a pallone. Qualche volta in queste situazioni il recupero può essere più lento, quindi secondo me abbia ancora fiducia e cerchi di continuare a fare un po' di riabilitazione, e se proprio le cose non dovessero andare può valer la pena di rifare una risonanza e vedere se non c'è magari anche un residuo meniscale che possa dare ancora fastidio. Possiamo sentire anche Raffaella, certo che sì, da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Finalmente una donna. Finalmente una donna, Raffaella. Eccola. No, finalmente una donna. Ma le donne ci seguono. Ma Raffaella. Sì, no, ma complimenti al di là delle cose formali, perché siete molto formativi ed educativi, almeno per me. Grazie. Allora. Niente, il mio problema è questo, da rivolgere al professor Gianchisi. Mi dica. Niente, io ho 59 anni, praticamente il ginocchio sinistro all'interno del dietro, praticamente dietro il ginocchio, ho un rigonfiamento da un paio d'anni. Io sono andata dal mio medico curante, perché ha detto della prassi è quella, e diceva sì, sai, sarà l'età, e così ho detto poi. Volevo capire se è una forma. Praticamente ovviamente il mio referente dovrebbe essere l'ortopedico o meno. Un altro particolare, quando sono seduta e tiro praticamente la gamba inferiore all'interno, sento dolore proprio al ginocchio, a tutta la parte del ginocchio. Adesso vabbè, detta e poi così, c'è allora, questo rigonfiamento. Dobbiamo distinguere le inciso, mi scusi, prego. È l'unica cosa che nel 1978 io ho avuto una frattura all'acetabolo. Secondo me i problemi sono due. Diciamo il gonfiore che lei ha dietro si chiama cisti di Becker ed è una cisti che molti di noi hanno, e spesso quando l'articolazione soffre, siccome è in connessione con l'articolazione, il ginocchio si gonfia e il liquido che è nell'articolazione tende ad andare nella cisti e poi rimane lì, c'è una specie di meccanismo che impedisce il ritorno all'indietro, diciamo. Quindi è una cisti che però non dà dei grossi problemi, ed è, attenzione, anche non consigliabile asportarla perché tende a recidivare. Però molto spesso, questo è l'elemento importante, questa cisti è la manifestazione di un problema dell'articolazione, quindi della cisti non si preoccupi, si preoccupi piuttosto del suo dolore facendo magari una risonanza, delle radiografie, per capire quale può essere il problema, che comunque mi sembra non molto importante. Essere e benessere. Allora, molti di voi mi scrivono che vogliono sentire di nuovo il nostro test. Carmelo, facciamo? Ripetita, dai allora. Quando sommate l'anno di nascita di un padre, quello di suo figlio, e acquisti l'età del padre e del figlio. Quale risultato ottenete? Chiamate all'800 24 00 24, uno di voi potrà ricevere a casa i primi 5 libri della collana Misura il tuo sapere, che è in edicola dal 23 di luglio, ogni sabato e martedì col Sole 24 Ore, a soli 10 centesimi in più del quotidiano. Tra l'altro potete anche fare una corsa subito in edicola, perché il test che abbiamo preso oggi è proprio del libro in tempo, che si fanno in tempo, sfide logiche e matematiche, poi ci sono i numerini e uno va a vedere. Allora, intanto abbiamo detto, professor D'Anchise, che la buona funzionalità del ginocchio è garantita dai muscoli e certo, dai tendini, certo. No? I muscoli anche, funzionano certo. Come una struttura di sostegno. Se sono deboli, certo. Ciao, ginocchio. E a maggior rischio l'articolazione, certo. Allora, dato che noi abbiamo molto, molto, molto a cuore le vostre ginocchia, io ho pensato di affidarle a delle mani esperte. In linea con noi è tornata a trovarci Anna Maria Cova, fisioterapista e fondatrice della Cova Tech Pilates School. Ciao Anna Maria. Ciao Nicoletta e buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora Anna Maria, obiettivo numero uno, rafforzare la muscolatura. Il Pilates lo insegna, noi siamo pronti, andiamo. Vediamo un po', un esercizio semplice, viene chiamato un esercizio isometrico. Perché isometrico? Perché i capi articolari non si avvicinano e non si allontanano e quindi per le articolazioni siamo più protetti e rischiamo meno. Sì. Allora, lo descrivo? Vai. Dico cosa si potrebbe fare? Sì, che io provo. Allora, non puoi perché devi metterti distesa supina. No, lo no. Puoi fare? No. Allora, da distesi supini che cosa facciamo? Stendiamo la gamba destra e la solleviamo di un 30-40 centimetri, tenendo bene gli addominali come siamo abituati a fare perché facciamo Pilates, autoallungamento del collo. Teniamo per 10 secondi la gamba in questa posizione, la abbassiamo, la pieghiamo e ripetiamo con l'altra gamba. Questa ripetizione può essere eseguita per 3-5 volte mantenendo 10 secondi la tensione muscolare. Però se vuoi te ne posso dare uno da seduta, Nicoletta. Dai, perché siamo qua io e il professor D'Anchise, che così lo facciamo. Faccio fare ginnastica vediamo al professore. Chi è più bravo. Vediamo, dai. Allora, autoallungamento perché da seduti ci siamo abituati ormai a sederci correttamente, certo, vero? Certo. Per cui autoallungamento della colonna vertebrale, addominali che di conseguenza tengono la posizione. Certo. Seduti ben indietro però nella seggiola. Mai proprio visto, da arrivare . Al cavo popliteo, che è la parte posteriore del ginocchio. E da questa posizione stendi la gamba pian pianino. Lo senti che è un po' difficile perché solo chi allunghi i muscoli posteriori della gamba riesce a stendere completamente. Devo dire che il professor D'Anchise può essere testimone. Guardi un po'. Perfetto. Vero? E ho anche il tacco. Con l'altra gamba. Ripeti con l'altra gamba e piega. In questo caso, volendo, possiamo fare una cosina che la faccio per chi non si vuole mettere lì 10 secondi, perché alla fine tutti si distraggono. Se eseguo una flesso estensione per 10 volte, grosso modo ho rinforzato il ginocchio, non sto parlando di patologie, sto parlando di ginocchia, esercizi che stanno, certo. Da dare giusto per sentire un pochino più di tono muscolare. Qua però che cosa abbiamo? La flesso estensione del ginocchio, per cui se ci sono patologie particolari a carico dell'articolazione, già siamo un pochino più nell'area gialla, non siamo proprio tranquilli di poterlo far fare a tutti quanti. Anna Maria, tu sai, conosci, hai letto sicuramente che Pippa, la sorella, la sorella Bella, no, è bella anche Kate, ma ha avuto, no, si è scolpita col Pilates. E allora, dato che noi siamo prossimi alla prova costume e le gambe vorremmo averle scattanti, snelle, in forma, un po' come Pippa, io volevo sapere che esercizi ha fatto questa qua. Allora, c'è da dire una cosa, tutto quello che è l'assetto del bacino fa la differenza su quello che è la forma dei glutei. Per intenderci, se immagini una persona con una postura scorretta, quindi col bacino portato in avanti, il sedere non guadagna assolutamente. Quindi si parte senz'altro con la consapevolezza e la percezione della posizione corretta della colonna vertebrale, soprattutto nel tratto lombare. Di nuovo, visto che sei seduta, sì. Sei seduta e puoi portare il bacino un po' indietro, tipo gobbettina. Sì. poi ti esasperi portandoti proprio in avanti col sedere in fuori, sì, trovi la posizione centrale che potremmo definire per il tratto lombare la posizione neutra. Mm. Da lì vai in autoallungo e se vuoi da questa posizione prova a spostarti indietro con la sedia, perché so che hai un tavolo davanti, ti porti in avanti per alzarti in piedi e spingi giù per terra i piedi raddrizzandoti. Questa è la postura corretta per il tratto lombare. Da qua si può fare tutto quello che si vuole di esercizi con la schiena sicura, perché altrimenti troppe ripetizioni di esercizi per i glutei possono creare delle lombalgie. Insomma, in parte abbiamo svelato il segreto di Pippa. Ormai tutte saranno come Pippa. Ormai è glutei da Pippa. Anna Maria, un abbraccio. Grazie per essere stata con noi. E noi andiamo a Davide che ci chiama da Milano. Buongiorno Davide. Ciao Nico. Buongiorno. Ciao Davide. Buongiorno a tutti. Ginocchio, numeri, di che cosa parliamo? Di glutei volendo. Della pippa, non lo so, raccontami. No, numeri, 222. Perché Davide? Come perché? Ma come perché? Dimmi tu, come sei arrivato a questo numero? Era data di nascita del padre, giusto? Sì. No, più data di nascita del figlio. Sì. Più età del padre. No. Più età del figlio. Quale risultato ottenete? 222. No Davide, accidenti. Però insomma è questo tu puoi sentire la nostra trasmissione, è un numero, dovete sparare un pochino più in alto. Davide, le tue ginocchia stanno bene? Sì sono in formissimo. Grazie Davide, mi dispiace ma non è il 222. Roberto, buongiorno da Savona. Buongiorno, sono Roberto, sì. E telefonavo per mia figlia, ha 2 anni e mezzo, sì. E ha camminato, diciamo, regolarmente dall'età più o meno da un anno e un mese, e però ho notato, soprattutto recentemente, che la postura delle ginocchia è parecchio come le ginocchia valghe. Mm. E quindi volevo chiedere se già adesso bisogna fare qualche cosa, non so, a livello di scarpe, cerchiamo di utilizzare scarpe con plantari, certo. E senta, cammina molto. La prima osservazione, in casa le vostre ginocchia come sono? Quelle di, c'è una tendenza al ginocchio valgo in famiglia o no? No, e tra l'altro neanche nei nonni. Benissimo. No, è l'unica, direi... Senta, non si preoccupi assolutamente, nel senso che a quell'età le ginocchia possono essere ovari o valghe e nella stragrande maggioranza dei casi vanno a posto per conto loro. In qualche caso, questo però è sempre veramente molto raro, nel tempo si devono fare degli interventi per ridurre questa deformità, però io personalmente non credo che ci sia nessun mezzo, né solette né calzature che possa realmente aiutare questa situazione, che vedrà nel tempo dovrebbe scomparire, quindi per adesso faccia finta di niente. Allora, grazie a Roberto, andiamo a Mauro che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo chiedere, siccome non siamo tutti come Pippa, ahimè, anche lei vuole dei bei glutei? Perché Mauro? No, perché no, scusa. Ma no, perché no? Perché no? Certo. Anche gli uomini adesso, no? Sì, le donne guardano anche Le donne guardano, ma Mauro che cosa ci Sentiamo. Racconta? Mi sembra che sia più interessato al ginocchio che al gluteo. Io volevo chiedere, ultimamente, salendo le scale, le mie ginocchia scricchiolano. Sì. Questo che corricchio un po', sono alto 1,84 m e peso 78 kg. Ecco, volevo chiedere appunto, queste ginocchia mi daranno problemi oppure no, è una cosa normale. Non sempre mi scricchiolano, a giorni alterni magari... Tenga presente, questo scricchiolio però non le dà dolore, lo scricchiolio. Ecco, allora faccia dolore. Finta di niente, si metta dei tappi, non li ascolti, perché lo scricchiolio che non dà dolore è molto frequente, non ha significato. Stia tranquillo. Bene, grazie mille. Le tengono compagnia, canticchiano le sue ginocchia. Essere e benessere. Stiamo dando i numeri, sì. Professor D'Anchise. Qualche volta sbagliati. A volte il nostro ginocchio ci fa vedere le stelle, noi invece oggi diamo i numeri. Moreno ci chiama da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Numeri, ginocchia, di che cosa parliamo con lei? Io chiamo per il test. Mm. Sì. Secondo me la risposta potrebbe essere 220. No, bisogna salire, Moreno. Guardi che è semplice. Quando sommate l'anno di nascita di un padre, quello di suo figlio, e a questi l'età del padre e del figlio, quale risultato ottenete? Non è 220, Moreno, mi dispiace, grazie. Andiamo a Graziano invece, dalla provincia di Fermo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo provare per il test, però se c'è spazio anche per una domanda del ginocchio, anche quello. Vede, prendiamo due piccioni con una fava. Allora, iniziamo dal ginocchio allora. Dal ginocchio io una cosa, lavoro sempre in ufficio, fortunatamente dal 1 luglio in pensione, quindi sto a posto. Però anche lavorando in ufficio, cammino io il sabato e la domenica soprattutto, e quindi che succede? La parte interiore del ginocchio sinistro, sì, la parte interna, sento questo doloretto che però si affievolisce quando torno in ufficio, che quindi non lo sollecito, non cammino, perché io cammino solito il sabato e la domenica. Invece adesso che cammino tutti i giorni, me ne accorgo che effettivamente mi fa... Perché il ginocchio vuole tornare in ufficio, professore D'Anchise. Vede come funziona. Se la pensione fa male. La pensione fa male in alcuni casi. Dunque bisognerebbe fare una radiografia e una risonanza magnetica. Può essere o una sofferenza del menisco, come abbiamo detto che si può essere un po' consumato, oppure, considerando che non è giovanissimo, se decide oramai se sta per andare in pensione, potrebbe essere un'iniziale sofferenza artrosica, una usura della cartilagine. Bisogna fare qualche accertamento. Grazie. Io ho fatto ieri la risonanza, mi dà la risposta venerdì. Allora bravo. Ci risentiamo. Intanto vuole dirmi un numero? Sì, 4022. 4022, bravo! Grazie. Bravo Graziano, vede, il suo ginocchio si lamenta, ma lei potrà tenere allenato il suo cervello. Merito di mia figlia che sta qui in macchina con me, che gli ho detto subito di fare i conti perché io stavo viaggiando. E allora eravate proprio lì. Magari funziona, come mi ha scritto un ascoltatore, anche con persone che non sono parenti. Ma noi andiamo da Fausto, che ci chiama da Bergamo, e poi andiamo alle terme. Fausto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo interpellare il professore proprio perché ho appena fatto una risonanza magnetica. Dai, fresca fresca. E mi hanno dato una rottura funzionale del menisco esterno con parziale estrusione con formazione di cisti parameniscale. Cioè, praticamente uno mi dice che è meglio non operarsi, di fare delle cure, vedendo. Altri mi dicono che purtroppo innanzitutto la via. Sì, innanzitutto il ginocchio le fa male? È molto, sono 4 mesi che soffro. Ecco, allora stia a sentire, molto spesso nel ginocchio abbiamo due menischi, uno nella parte interna e uno nella parte esterna. È frequente che si formi una cisti nel menisco esterno, e la presenza di questa cisti altera il tessuto meniscale, e quindi lei ha dolore più che altro perché si è usurato il menisco, però bisogna fare, a mio parere, un intervento chirurgico perché è l'unico modo per risolvere il suo problema. Si faccia operare. Si faccia operare, dice il nostro professor D'Anchise, che non è un chirurgo che no, assolutamente no. E allora io voglio dare il benvenuto al professor Antonio Fraioli, che è primario dell'unità operativa complessa di medicina interna, terapia medica e medicina termale alla Sapienza Università di Roma, azienda Policlinico Umberto I. Professore, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei portare le ginocchia alle terme, ma vorrei sapere da lei, questa magnifica clinica della natura, sempre aperta, che cosa mi può offrire di interessante? Fanghi e bagni, soprattutto per questo tipo di malattia. Sì. E l'Italia è ricchissima, siamo i più ricchi in Europa di stazioni termali. Importante è il momento giusto per la fangobagnoterapia per il ginocchio, cioè il momento termale della malattia. Cioè un momento in cui non bisogna che ci siano aspetti infiammatori, sì, acuti, quindi lontano da questi episodi, che non ci siano controindicazioni, e poi soprattutto è importante il fango o il bagno o la fangobagnoterapia in rapporto alla prescrizione dei farmaci, se ci sono stati interventi chirurgici, fa trattamenti fisioterapici e altri tipi di terapia. Quindi non nella fase acuta, certo, non subito dopo un intervento, ma giustissimo, in un certo senso le acque, i fanghi termali ci rimettono in gamba, perché fanno una sorta di riequilibrio, di ristrutturazione? Diciamo che agiscono sui sintomi soprattutto, perché ecco, chi soffre, presenta un disturbo al ginocchio, un'osteoartrosi, il dolore e l'attività motore, l'attività della vita quotidiana, pensiamo al camminare, se ascoltavo prima il signore che diciamo, in rapporto a una certa distanza che percorre, salire e scendere le scale, una rampa di scala, accovacciarsi, ebbene ci sono tutta una serie di disturbi funzionali che rendono la vita quotidiana un po' difficile e che possono, inseriti in un contesto opportuno insieme agli altri rimedi, parlo di fango bannaterapia, possono aiutare molto a migliorare questi sintomi che colpiscono il ginocchio di una persona che soffre per questa patologia. Quindi un aiuto anche dalle terme. Professor Fraioli, grazie per essere stato con noi. Buona grazie. Giornata, io devo scappare da Luigi che ci chiama da Piacenza. Luigi. Buongiorno. Buongiorno Luigi, intanto mi è venuto scappare e invece io vi devo invitare a scaricarci. Potete riascoltare sempre le nostre puntate e scaricarle dal podcast. Non so perché mi è venuto questo, ma poi quando finisco Laura Manossi mi dice non hai detto che ti scaricare. Riproverano. Eh sì, ha ragione, però ci sono tante cose da raccontare. Scaricatemi, scaricateci. Luigi da Piacenza, mi raccomando, lo faccia anche lei. Intanto mi racconti. No, una piccola, diciamo una piccola mia storiella che io amo molto e credo molto nel fai da te, nel senso che i migliori medici, senza screditare ma il no, medico certo, presente, i migliori medici siamo noi del nostro corpo, credo. Io penso, che lei abbia ragione. Che cosa, che fai allora da te ci consiglia? Le spiego due cosette, una cosa molto veloce che mi è successo. Io ho 58 anni, sì, ho sempre giocato al calcio, poi per motivi diciamo di lavoro ho dovuto smettere per dedicarmi completamente al lavoro, quindi sono passati quei 25-30 anni che non ho mai più fatto attività fisica, solo qualcosina, qualche passeggiata durante le solite domeniche. Ho iniziato per motivi di schiena, perché faccio un lavoro di macchina, ho cominciato ad andare in palestra. Ho iniziato a fare tutte le mie ginnastiche, a un certo punto ho iniziato a sentire dei piccoli dolori alle ginocchia. Io amo tantissimo correre. E cosa fatto? Sul tappeto oppure all'esterno. E allora ho fatto le mie risonanze, ho fatto tutte quelle cose che il mio medico diciamo mi ha consigliato di prendere delle polverine per vedere di riorganizzare la cartilagine. Però ho fatto questo, ho fatto del riposo e ho iniziato ancora la mia ginnastica. A questo punto adagio adagio sentivo ancora il dolore. Allora Luigi, testa mia, sì, di testa, sì, veniamo al suo consiglio, perché ho fatto molto, molto una ginnastica mirata, quindi dello stretching, una corsa molto lenta che poi aumentava, vi dicendo, e per ultimo ho preso del silicio. Del silicio? Siamo arrivati al silicio, Luigi! Professor D'Anchise. Ma diciamo che sicuramente il percorso fatto al di là del silicio, sul quale non mi sento di intervenire, è un percorso ragionevole, cioè in presenza di una sintomatologia dolorosa un po' come quella che mi ha raccontato, il rinforzo muscolare ben fatto. E a questo proposito volevo dire che le osservazioni fatte dalla signora Cova sono delle osservazioni molto giuste. Quel tipo di esercizi che vengono fatti in isometria, quindi senza far lavorare l'articolazione ma rinforzando la muscolatura, vanno molto bene. Allora, come possiamo concludere questa nostra chiacchierata? Viva il ginocchio! Viva il ginocchio! E intanto io non lo so, ma Armando da Pescara, che mi ha scritto appunto che il giochino che abbiamo fatto sui numeri funzionava anche con persone che non erano parenti, adesso mi scrive: funziona Nicoletta, funziona, e se lo facciamo con tre persone il risultato è il triplo dell'anno corrente, e così via. E quindi voi provate, iniziate a darvi, date i numeri, ma domani domani tornate qui, ricordate di scaricarci. Grazie professor D'Anchise. Grazie. Lei non ci scarichi, però torni a trovarci. Buona giornata. Essere e benessere,